Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Un caloroso benvenuto a tutti voi da parte di Giulio Caperdoni, sia che state ascoltando via etere, via satellite o via internet al primo passaggio radiofonico il 23 di agosto 2007, sia che state ascoltando in un qualunque altro momento grazie al podcasting. Questa è Eclettica che, pur nel pieno mese di agosto, ha la possibilità di farvi ascoltare novità discografiche che sono tipicamente anticipazioni di quanto uscirà nei prossimi mesi, a settembre, a ottobre. Ha la possibilità di farvi ascoltare le parole di Woody Allen e la voce di Paolo Villaggio. Oggi, più che mai in qualsiasi altra epoca storica, l'umanità si trova ad un bivio. Una strada conduce alla disperazione più assoluta, l'altra alla totale estinzione. Preghiamo il cielo che ci dia la saggezza di fare la scelta esatta. Io vi parlo così non perché ritenga che tutto sia inutile, futile e vano, ma perché sono dolorosamente convinto che l'esistenza stessa è non solo priva di senso, ma piena di terrore. Tale mio atteggiamento potrebbe facilmente scambiarsi per pessimismo. Non lo è. È semplicemente una sana e salutare preoccupazione per l'angoscia dell'uomo moderno. Per uomo moderno qui intendesi qualsiasi persona, ambo sessi, nata dopo l'editto di Nietzsche per cui Dio è morto, ma prima del clamoroso successo di I Wanna Hold Your Hand. Tale angoscia si estrinseca in modo ambivalente, benché alcuni filosofi linguistici preferiscono ridurla ad una equazione matematica che si può facilmente risolvere, non solo, ma portarla anche in saccoccia. Posto nella sua forma più semplice, il problema è: com'è possibile trovare un senso compiuto in un mondo finito dato il mio numero di colletto di scarpe e di calzini? Il quesito è molto arduo quando ci si renda conto che la scienza ci ha delusi. È vero, ha debellato molte malattie, decifrato il codice genetico e persino mandato esseri umani sulla Luna. E tuttavia, quando un uomo di 80 anni viene affidato alle cure di due massaggiatrici diciottenni, non succede niente. Perché? Ma perché i problemi reali non cambiano mai. Dopotutto, può l'anima umana venire osservata al microscopio? Beh, può darsi, ma ne occorre in tal caso uno molto potente e con due oculari. Questo era l'incipit di Discorso ai laureandi, da Effetti collaterali, di Woody Allen. Così che Senta, lei conosce la signorina Fantozzi? Mm. Mariangela Fantozzi. Mariangela Fantozzi. Fantozzi. Cosa vuole? Fantozzi? Fantozzi. Sì, con la Z, capito, non so mica scemo. Fantozzi, adesso guardo un attimo nello schedario. Ain't no way to explain or say how painful the hangover was today. In front of the toilet, hands and knees, trying to breathe in between the dry heaves. My baby made me some coffee, afraid that if I drink some, it's probably coming right back out me. Couple of Advil, relax and chill, at a standstill with how bad I feel. I think I need to smell fresh air, so I stepped out the back door and fell down the stairs. The sunlight hit me dead in the eye, like it's mad that I gave half the day to last night. My bad sight made me trip on my ass right into that patch of grass, like that's life. All of a sudden, I realized something. The weather is amazing, even the birds are bumping. Stood up and took a look and a breath, and there's that bike that I forgot that I possessed. Never really seen exercises friendly, but I think something's telling me to ride that 10-speed. The brakes are broken, it's alright. The tires got air and the chain seems tight. Hopped on, it felt the summertime. It reminds me of one of them Moosob lines, like sunshine, sunshine is fine. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Sunshine, sunshine is fine. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it. If I could, I would keep this feeling in a plastic jar. Bust it out whenever someone's acting hard. Settle down, barbecue in the backyard. The kids get treats and old folks get classic cars. Every day that gets to pass is a success, and every woman looks better in a sundress. The sunshine's an excuse to shoot hoops, get juice, show and prove them moves and let loose. I hear voices, I see smiles to match them. Good times, and you can feel it in the fashion. Even though the heat cooks up the action, the streets still got butterflies, enough kids to catch them. Riding my bike around these lakes, man, feeling like I finally figured out my escape plan. Take it all in, the day started off all wrong, but somehow now that hangover is all gone. Ain't nothing like the sound of the leaves when the breeze penetrates these Southside trees. Leaning up against one, watching the vibe, forgetting all about the stress, thanking God I'm alive. It's so simple, I had to keep the song simple. And when I get home, I'm gonna open all the windows. Feeling alright, stopped at a stop sign, a car pulled up, bumping Fresh Prince of Summertime. Summer, summer, sign. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Sunshine, sunshine is fine. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it. Un po' di anticipazioni in questo inizio di Eclettica, anche se una di queste ci farà ritornare molto indietro nel passato, ma con ordine. Abbiamo aperto con Adriano Modica, che esce per la Trova Robato, l'etichetta dei Mariposa. Adriano Modica, di cui avremo sicuramente modo di parlare, l'uscita del disco è prevista per settembre, magari in quell'occasione spenderò qualche parola in più oltre che farvi ascoltare la sua musica. Poi è stata la volta di un duo di Minneapolis, era da un po' di tempo che in Eclettica non si dava spazio a questi suoni. Un duo rap di Minneapolis formato da MC Slug e DJ Ant, che è arrivato al suo sesto album dal titolo When Life Gives You Lemons, dal quale ho estratto Sunshine. Ora, per mantenere le promesse, il salto indietro nel tempo. Salto indietro nel tempo agli anni 80, ma lo si fa perché viene pubblicato il 16 di ottobre da Yep Rock una collana in CD o in 8 dischi in vinile che raccoglie 3 dischi probabilmente fra i tre più belli della carriera di Robin Hitchcock, oltre ad alcune rarità. Fra queste rarità ce n'è una che si intitola I Wanna Go Backwards, e infatti la raccolta di CD o di vinili si chiamerà appunto I Wanna Go Backwards, e questa è una canzone che mi ha colpito molto, nonostante si capisca che è una canzone che non è mai stata completata. Però basta la voce di Robin Hitchcock e basta questa chitarra con effetto fuzz. Should come down to the empty place, the pyramids and cones were shining in his face. I bought a dozen rings to strew about his feet. Elisha looked at me and said, I still eat meat. Almost over now. These are the last gray seconds. Yeah. He had some mayonnaise. He had some attitude. He prayed a different God. Elisha looked at me, he squinted through his fork. He said, if you'll eat beef, then mister, I'll eat pork. And time is almost over now. These are the last gray seconds. È noto che il computer più perfezionato del mondo ha un cervello meno sofisticato di quello di una formica. D'accordo, si potrebbe dire lo stesso di molti nostri parenti, ma costoro ci tocca sopportarli solo alle feste di nozze o in altre rare occasioni. La scienza è invece qualcosa da cui siamo dipendenti tutto il tempo. Se mi viene male al petto, devo andarmi a far fare una lastra. Ma e se le radiazioni dei raggi X mi procurano guai anche più gravi? Magari finisco in sala operatoria senza neanche accorgermene. Metti allora che, mentre mi somministrano l'ossigeno, ad un anestesista gli gira di accendersi una sigaretta. La cosa successiva sono io, che sorvolo Manhattan in pigiama. È scienza questa? D'accordo, la scienza ci ha insegnato a pastorizzare il latte. E questo, d'accordo, può essere pure divertente, in buona compagnia. Ma e la bomba H? Avete mai visto che cosa succede quando un aggeggio di quelli casca accidentalmente dalla scrivania? E dove è andata la scienza quando uno ponza sugli enigmi eterni? Com'è che ebbe origine il cosmo? Da quanto tempo si evolve e gira? La materia scaturì da un'esplosione o dal verbo di Dio? E in quest'ultimo caso, non avrebbe egli potuto darle inizio 2 o 3 settimane prima, tanto per approfittare del bel tempo? Cosa intendiamo dire esattamente con l'uomo immortale? Ovviamente non è un complimento. Anche la religione ci ha purtroppo delusi. Miguel de Unamuno scrive estrosamente dell'eterno persistere della coscienza, ma non è faccenda facile. Specie quando si legge Thackeray. Spesso penso quanto doveva essere confortevole la vita per l'uomo primitivo, dato che egli credeva in un potente e benigno creatore che si pigliava cura d'ogni cosa. Figurarsi la sua delusione se vedeva sua moglie ingrassarsi. L'uomo contemporaneo non gode ovviamente di tal pace dello spirito. No, la sua fede è in piena crisi. È, per usare una parola di moda, alienato. Ha assistito ai disastri della guerra, ha conosciuto calamità e catastrofi e cataclismi, ha frequentato bar per cuori solitari. Questo era ancora l'incipit di Discorso ai laureandi, da Effetti collaterali di Woody Allen. We'll be right back. Rise Above, uscito in questo 2007 da parte di Dead Oceans per il gruppo di Bedford Stuyvesant, Brooklyn, New York City, gruppo di nome Dirty Projectors, gruppo che si fa vanto di usare l'esperanto. Infatti molte parti del loro sito sono appunto in esperanto, quindi per me abbastanza incomprensibili. Non solo, fanno anche cover in esperanto, per esempio cover dei Run DMC oppure Imagine di John Lennon, che ammetto un po' ci perde. Giulio Capredoni, che sta per arrivare alla chiusura dei primi 30 minuti di Eclettica, poi ce ne saranno altri 30 come tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20, e chiude con due brani italiani in sequenza. Il primo da Torino, Vittorio Cane con l'aiuto di Mao, per un pezzo che da un po' di tempo a questa parte ci stiamo ascoltando all'interno di Eclettica, dal titolo Ci proverò. Per chiudere invece con una cover che a me ha intrigato parecchio, da parte di una artista di lingua tedesca che fa di base a Berlino, che però è innamorata della musica italiana. Lei si chiama Margaret Kammerer e il brano che sentirete ha per titolo Vedrai Vedrai. Sono curioso, come sempre, di sentire i vostri pareri. Pirichini, mo va che siete della protezione degli animali, siete. Questo cos'è? Mosle brutte. È un tipo. Un tipo? Sì. Un tipo di simmi, un tipo. Il tipo più brutto d'Europa.